A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, c'è modo e modo di giocare e magari anche perdere poi una partita platonica. Beh, l'Inter di Brema ieri sera ha scelto certamente il peggiore, una plateale resa senza combattere che fa a pugni con una richiesta preventiva del presidente Moratti di evitare brutte figure, ma che fa a pugni anche con, insomma, con, secondo me in qualche caso, con la serietà professionale, perché di fronte c'era una squadra che non ha davvero fatto nulla, a parte che era già eliminata da tempo, ma che non ha fatto nulla di speciale, si è limitata a raccogliere i cocci di una squadra che palesemente non aveva voglia. Ora che l'Inter si è già proiettata su questa cosiddetta finale mondiale, è un dato di fatto oggettivo che quello di Abu Dhabi sia l'unico obiettivo di stagione al momento certamente alla portata dell'Inter, perché sugli altri bisognerà vedere poi da gennaio in avanti come si metteranno le cose, è un altro dato di fatto. Però ripeto, ci sarebbe modo e modo, no, di arrendersi, magari provando a combattere o provando comunque a metterci un pochino più di impegno e un pochino più di sugo. Sentiamo come la spiega Rafa Benitez. Materassi, per precauzione abbiamo deciso che alla fine era un rischio, è meglio lasciarlo fuori, no? E dopo la volta di Zanetti stesso, no? È chiaro che questa partita è una partita diversa, no? Tutti parliamo, la squadra era qualificata, abbiamo il mondiale vicino e sempre proviamo di fare tutto per la motivazione della squadra, ma si vedeva che quando abbiamo subito il primo gol era difficile, era farlo bene, e dopo è sfortuna con due pali, ma chiaramente mancava un po' di energia. Chiaro che nessuno sapeva prima, no, che cosa potevano fare loro, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro con i giocatori che abbiamo disponibili. Abbiamo puntato con i giovani, che penso che sarà un'esperienza per loro per il futuro, ma non possiamo rischiare gli altri giocatori. Sì, sappiamo che abbiamo 4-5 giocatori che arrivano con problemi al mondiale, se rischiamo gli altri che abbiamo, penso che alla fine la squadra era qualificata, proviamo con i giocatori che abbiamo, non abbiamo potuto, adesso pensiamo al mondiale. Beh, insomma, che le attenuanti non manchino, non c'è nessun dubbio che insomma, che poi queste attenuanti siano state prese un tantino troppo a pretesto per una partita inguardabile è anche altrettanto vero. Forse, ma può essere un caso, perché ieri sera poi Benitez, in un'altra dichiarazione a caldo, ha ripetuto 2 o 3 volte che molto dipendeva da quello che avrebbe fatto il Tottenham sul campo olandese, e ha ripetuto 2 o 3 volte il Tottenham vinceva, il Tottenham stava vincendo, sicché io mi sono fatto l'idea, magari sbagliatissima, che l'Inter intendesse provare ad arrivare a fine primo tempo perlomeno in parità, cioè col minimo sforzo ma senza spendere energie, e che nel caso, nell'intervallo, il risultato del Tottenham, che era in vantaggio nella qualificazione, cioè a parità di risultati, a parità di vittorie, a parità di pareggio, passava come primo il Tottenham, insomma ci si sarebbe poi regolati nella ripresa per decidere l'atteggiamento. Il gol che è dei tedeschi, che è arrivato proprio quasi allo scadere del primo tempo, probabilmente ha convinto la squadra, magari l'allenatore stesso, a mollare del tutto gli ormeggi in maniera, ripeto, comprensibile ma discutibile. Sentiamo come la spiega uno dei pochi che ci ha messo tutto l'impegno possibile, cioè il vecchio Cordoba. Credo che comunque adesso dobbiamo tanto pensare a fare bene questi giorni, preparare bene il mondiale. Di sicuro queste partite lasciano amarezza, perché perdere 3-0 è un po' pesante. I ragazzi hanno la volontà, ma devono ancora cercare di avere più chiaro qual è il gioco che vuole fare la squadra. Però credo che questo ci vuole con il tempo. È una partita che eravamo chiusi all'inizio, stavamo bene, abbiamo subito un gol sul calcio d'angolo, magari evitabilissimo, ma va bene così. Dopo loro hanno avuto la partita in mano e hanno fatto il loro gioco. Di sicuro non il modo migliore di festeggiare il giorno dedicato al patrono della città di Milano, Sant'Ambrogio. E qui arriva la seconda sconfitta di giornata di un 7 dicembre davvero da dimenticare per l'Inter, perché è arrivata la mancata assegnazione del Lambrogino d'Oro a un personaggio della squadra milanese, che poi poteva essere presidente piuttosto che allenatore, piuttosto che capitano. Comunque un riconoscimento per questa grande impresa che l'Inter ha saputo compiere a primavera. E che in genere viene come dire, riconosciuta dalle città, no? In occasione dei premi e dei festeggiamenti patronali. Il comunicato dell'Inter è abbastanza duro. È con grande dispiacere che FC Internazionale constata anche in occasione di Sant'Ambrogio dei conseguenti ambrogini assegnati ai cittadini più illustri la mancanza totale di un segno di riconoscenza da parte del Comune di Milano nei confronti della società nerazzurra per i grandi successi nazionali e internazionali ottenuti quest'anno. Conseguentemente FC Internazionale rivolge direttamente ai propri tifosi di Milano un grande e affettuoso ringraziamento per la passione, le gioie e l'orgoglio vissuti insieme. Questo è il comunicato ufficiale, ufficiosamente assai più curioso, direi anche divertente, che in realtà questa polemica durissima sia tra cognati, perché è tra il presidente dell'Inter, che si chiama Massimo Moratti, e la cognata, e cioè la moglie del fratello, che si chiama Letizia Moratti e che fa per l'appunto di mestiere attualmente il sindaco di Milano. Ci sarà tempo poi più tardi per i vostri eventuali interventi, perché oggi è una giornata festiva, noi siamo regolarmente in diretta e se vi fa piacere intervenire non avete che da farlo. Certamente immagino che il pubblico cosiddetto all'ascolto sarà un po' meno folto, un po' meno numeroso del solito, proprio per la festività dell'Immacolata. Festività che stasera il Milan in casa può solennizzare con assoluto relax contro l'Ajax, una partita platonica. Tra poco sentiremo le intenzioni di Allegri per questa partita, ripeto, che non conta. Conta invece quella che la Roma gioca in Romania, perché, o meglio, conterà, è come se il Basilea dovesse vincere a Monaco sul campo del Bayern, perché in questo caso la Roma sarebbe costretta ad ottenere almeno un punto, un non impossibile pareggio in casa del Cluj. Se invece il Bayern deciderà di onorare l'impegno, allora la Roma potrebbe anche permettersi di perdere, ma evidentemente non può essere questa l'intenzione di partenza. Sentiamo Ranieri. Ma al di là dell'insidia, che noi appunto basta un punto, loro invece sono matematicamente fuori anche dall'Europa League, è proprio questo, no? Loro non hanno più nulla da perdere, è una buona squadra, è l'ultima partita che giocano sotto i riflettori del grande calcio, per cui vorranno fare una gran partita, vorranno mettersi in mostra, perché la Champions League è una vetrina importantissima per loro. Il gruppo si deve adeguare a questa nuova incognita, no? Che è il turnover, è il fatto che dei titolari, perché per me sono tutti titolari, restano in panchina o vadano in tribuna. È logico che è una cosa nuova e tutte le cose nuove non sono indolori. Siamo stati un pochettino superficiali nella partita col Bologna, nella partita del Chievo, vincendo tutte e due per 2-0, con 4 punti in più saremmo stati lassù. Questo è certamente vero ed è un discreto rimpianto. L'altra notizia di giornata è quella che lo sciopero è stato praticamente revocato, non ancora ufficialmente revocato, perché l'incontro decisivo sarà domani, ma insomma dopo 4 mesi di battaglie, polemiche anche dure, di scontri violenti, trattandosi di una trattativa che poteva essere gestita in maniera diversa e di mediazioni continue da parte federale, alla fine ieri, quando proprio sembrava che ormai lo sciopero riproclamato per l'ennesima volta fosse ineluttabile, è invece sopraggiunto questo spiraglio che, da quel che si capisce, insomma, scongiura l'ipotesi che sabato e domenica non si giochi. Adesso ci dedichiamo a un'iniziativa particolare. Domani, giovedì, alle 17 a Milano, Fiera di Milano Ro, nell'ambito di World Football Show, ci sarà un convegno moderato da Bruno Pizzul, cui interverranno Gianni Rivera, presidente del settore giovanile scolastico, Arrigo Sacchi, coordinatore delle nazionali giovanili, Don Alessio Albertini, fratello di, che è il segretario della Commissione Sport della Diocesi di Milano, il responsabile del settore giovanile dell'Inter, Roberto Samaden, con la partecipazione di Michele Di Cesare, direttore del Nuovo Calcio, e un intervento di Paolo Guenzi, professore associato di marketing presso la Bocconi. Tutto questo questo nel segno di che cosa? Ma nel segno di uno slogan che trovo molto interessante, che però adesso vorrei spiegato un po' più nel dettaglio, che è 1 più 1 uguale 11. Calcio e società, la qualità della relazione motore di un insieme vincente. Parliamone col presidente del settore giovanile e scolastico Gianni Rivera. Buongiorno Gianni. Buongiorno a tutti. Primo compito, 1 più 1 uguale 11. Guarda che ti sei dimenticato del giovane Pizzullo. Del giovane Pizzul? No, l'ho detto all'inizio che il giovane Pizzul modererà, certo. Ah, vedi, certo. Il giovanissimo Bruno Pizzul. Pizzul, giustamente l'hai pronunciato con l'accento. Senti, no, tu stai divagando perché 1 più 1 uguale 11 è difficile da spiegare? No, è semplicissimo. Guarda, il gioco del calcio si comincia a giocare da soli. Sì. Quindi 1. Poi a forza di mettere più 1, più 1, più 1 diventa 11. E il gioco del calcio si può giocare in 1 o in 11. Mm. E poi con tutta l'altra numerazione che può portare fino al numero 11. Sì. Perché è un gioco divertente, è bello farlo. Poi quando giochi da solo sei sicuro che palleggiando col muro la palla ti ritorna indietro. Se gliela sai dare giusta. Sai dare bene tu, se no rischi con qualche caviglia un po' diversa dalla tua di non essere soddisfatto nel ritorno. Certo, certo. Quindi 1 più 1 uguale 11 è un messaggio, immagino, insomma mi sembra di capire, di aggregazione, che ha un valore anche educativo e sociale, non soltanto tecnico, per questi bambini e ragazzi. Certamente, io penso che qualsiasi attività si svolga nello sport, ma anche in ciò che non vuol proprio essere sportivo, e mettere insieme tanti ragazzi che condividono un progetto, sapendo che ci sono delle regole da rispettare, si può costruire una società migliore. Certo. E quindi questo vale nello sport come vale in tutte le attività. 1 più 1 significa anche, io leggo da questa brochure di presentazione del convegno, significa in particolare il libero sfogo alla fantasia, nel senso che ciascuno di questi, soprattutto nell'età più infantile, i 5-6 anni, quando si comincia, quando voi cominciate ad avere un po' di giurisdizione su questi bimbi, lasciare il libero sfogo alla fantasia, ma cominciando a far capire al bambino che per quanto lui possa essere bravo, ce ne sono altri 10 intorno che grosso modo hanno lo stesso colore di maglia. Questo è vero, ma questo quando cominciano a giocare in 11, ma sì. Quando hanno 5-6 anni il numero pochi. Sono un pochino meno di 11, perché sì. È un pochino troppo chiedere ai ragazzi di quell'età, ai bambini di quell'età di giocare su campi del livello dei più grandi. Però io mi ricordo che giocavamo senza allenatori, senza arbitri, senza nessuno che ci desse indicazioni, ci organizzavamo in due squadre e poi nel gioco, durante il movimento, ognuno faceva la sua scelta quasi automatica in base alle caratteristiche che si riconosceva, che si riscontrava. Certo. E uno giocava davanti, l'altro giocava un po' più indietro e l'altro in difesa. Quindi si può fare anche meno degli allenatori a quell'età. Senti, no, ma crescendo poi invece e diventando adulti, mi incuriosisce, adesso siete anche un po' più che adulti, siamo un po' più che adulti, certo. No, mi incuriosisce la compatibilità, proprio anche su questo tema, tra il coordinatore della Nazionale Giovanili, che è Arrigo Sacchi e che è lo storico profeta dello spartito da rispettare ad ogni costo, e un primo violino della scala come invece sei stato tu. Andate d'accordo in questi vostri nuovi incarichi? Io direi di sì. Sì. Sacchi, non bisogna dimenticarsi che ha vinto col Milan con praticamente 11 solisti. Sì. Che poi facevano la squadra, perché il solista nel mondo del calcio non è fine a se stesso. Se uno dribbla tutti gli avversari e fa il gol anche per i compagni, mica solo per lui. Certo. E quindi già questo fatto, che è la massima espressione del singolarismo, vuol dire comunque fare un'attività nell'interesse anche degli altri tuoi 10 compagni, per cui Sacchi era bravissimo nel preparare la squadra anche sul piano mentale, insomma è stato credo il primo allenatore italiano che abbia spiegato ai giocatori italiani che si può vincere in trasferta giocando come si gioca in casa. Sì, vero. E questo gli è successo diverse volte, di andare a vincere anche in trasferta come vinceva in casa. Però era ovvio che dipendeva molto dalla qualità dei giocatori, perché se non c'è qualità gli puoi raccontare qualsiasi tattica e convincerli anche attraverso un intervento psichiatrico, ma non si va oltre. ma non c'è molto da fare. Senti, a proposito di qualità, io sto parlando, e chi è collegato con noi sta ascoltando, il primo pallone d'oro della storia del calcio italiano, che è stato per l'appunto Gianni Rivera nel 1969. Dato che questo è uno degli argomenti di questi giorni e che molto ha colpito, giusto o non giusto che fosse, escludere Snyder piuttosto che Milito, eccetera, molto ha colpito questo trionfo dei tre, io li chiamo nani, ma li chiamo nani con molto affetto, non certamente per disprezzo, i tre nani d'oro del Barcellona, Xavi, Iniesta, Messi. Mi è sembrato, pensa che assist che ti do io adesso, mi è sembrata la declinazione, la traduzione del tuo primo slogan di qualche mese fa, quando ti sei insediato, e cioè basta con il lavoro fisico torniamo al lavoro tecnico. Gli spagnoli ci hanno anticipato in questo e hanno avuto anche risultati importanti come quelli, insomma gli è scappata la Coppa della Champions League, sì, perché si è incontrata con l'Inter che aveva qualche cosa di più probabilmente, o forse si erano già un po' illusi, sì. Però hanno vinto i mondiali di calcio con un grande gioco di squadra e probabilmente hanno cominciato in età giovanile a preparare questo concetto di vita sui campi di calcio. E quindi noi, io poi, per me, visto che io ci sono arrivato a fare calciatore di un discreto livello, discreto, non avendo il fisico di Maciste, e quindi vuol dire che si può arrivare a questi livelli anche con il fisico come il mio o quello di Messi o quello di Iniesta. L'importante nel calcio è avere un buon rapporto col pallone, non trattarlo male, perché altrimenti lui si lamenta e va per una strada diversa, e così trattandolo bene lui va dove vuoi tu. Senti, questo 1 più 1 uguale 11 è un eccellente slogan che, ripeto, ha anche una valenza di aggregazione sociale, se vogliamo. Questa lezione del Barça di questo periodo, quella meravigliosa, fantastica partita giocata con Real, questi successi, questi riconoscimenti internazionali e mondiali, secondo te possono individuare, possono farci vedere una nuova strada dopo tutti questi anni appunto di fisicità, di martellamenti, di fisici, di stazze incredibili? Ma io me lo auguro, perché in una partita io... Casualmente ho visto anch'io quella partita, sì, perché mi aveva incuriosito l'idea di vedere Real Madrid e Barcellona. Sì. Dal momento che stavo in casa ho deciso di vederla e sono rimasto colpito anch'io per la facilità con cui il Barcellona ha avuto ragione del Real Madrid, che pure non è una squadra di terza categoria. No. In quel momento sembrava. Li ha fatti sembrare così a gioco lungo, no? Sembrare così alla fine della partita, sì, cosa che in realtà non è. Però è indicativo del fatto che una certa cultura è quella che dovrebbe vincere sul campo. Il campo ha una regola. Se si gioca al calcio... conoscendo bene il pallone si ottengono certi risultati, se lo si mette tutto sul piano fisico si può ottenere qualche volta qualche discreto risultato se gli altri prendono paura, ma se gli altri sono padroni del controllo del pallone non gli va via anche la paura. Non si va lontano. Per i milanesi e cittadini e ariosi, e quindi anche dei dintorni, chi vuole ascoltare la prosecuzione di questo tema, di questo argomento, e ascoltare insieme gli altri interventi oltre a quelli di Rivera, cioè di Nuno Albertini, di Arrigo Sacchi, del responsabile del settore giovanile dell'Inter e di altri ospiti ancora, non ha che domani alle 17 da recarsi a Milano alla Fiera di Milano Rho nell'ambito di World Football Show. Grazie a Gianni Rivera. Grazie a voi e buona serata. Ci sono alcuni ascoltatori anche oggi, nonostante la festività, che hanno chiesto di intervenire. Eccoli, Marco, provincia di Udine, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Senta, volevo capire l'affermazione che lei ha fatto prima sul Milan, che era una partita platonica, quella dell'Inter no. Capisco che l'Inter era campione, voleva dimostrare qualcosa in più, però per me sono tutte e due partite platoniche. Ah no, ma certo, certo. Se ho detto così ho sbagliato, ma non mi sembrava di aver detto a questo modo, cioè di aver detto che... quella è l'Inter, è una partita platonica, però c'è un limite a interpretarla anche in maniera platonica. Sì, e mi sembrava che avesse un po' esagerato l'Inter ieri sera. Sì, sì, sì, anche perché arrivare primo o secondo, secondo me, c'entra poco. Perché se lei ben sa, l'anno scorso l'Inter è passata il turno al 93esimo, sì, che era eliminata, e poi ha vinto la Coppa, perciò... È vero, era un'altra squadra, così a occhio. Cioè, mi sembrava che avesse altre caratteristiche, altre motivazioni, altra anima, anche un'altra età forse e un'altra salute soprattutto, però è vero, queste cose sono sempre molto relative. Lei pensi per esempio che ho sott'occhio quello che stanno scrivendo in questo momento i giornali spagnoli, i quali si dividono, perché per esempio due giornali madrileni, no? Due quotidiani sportivi madrileni che sono Barça e che sono Marca e As scrive che l'Inter è la grande minaccia per Real e Barcellona ai prossimi ottavi di finale, perché rimane comunque la squadra campione d'Europa uscente, questa è l'opinione di As. Marca invece la vede tutto al contrario e dice che la crisi dell'Inter e di Rafa Benitez, che ovviamente essendo un madrileno di nascita è molto popolare ed è molto seguito laggiù, sembra, insomma, non, se non irreversibile, sembra una crisi veramente molto grave. Quindi lì poi c'è il, insomma, come sempre le opinioni che si dividono. Antonello da Perugia, buongiorno. Dottor Garanzini, intanto grazie per la possibilità dell'intervento. No, io volevo proprio parlare dell'Inter perché, come dire, al di là che in questo momento la squadra non mi sembra nelle migliori, come diceva adesso lei, condizioni di salute sia per le assenze anche per altri motivi, però ho avuto la percezione sin dall'inizio del campionato che, come dire, il passaggio Mourinho-Benitez in qualcosa di mentalità, di atteggiamento, di gioco anche, questa squadra l'abbia persa. Cioè, Mourinho poteva essere simpatico o antipatico, però di fatto mi sembrava che con lui l'Inter avesse un altro spirito mentale, non lo so, questa è la mia sensazione, non sono tifoso interista da osservatore distaccato della questione. E poi volevo da lei, come ultima cosa, un parere un po' sulle italiane in Europa. Mi sembra che il nostro calcio, se la salute del nostro calcio si misura spesso dai risultati in Europa, talvolta mi sembra, ecco, che così siamo un pelino un po' inferiori. Non lo so cosa ne pensa lei di questo. Vabbè, lei dice un pochino e già mi sembra sia molto tenero, no? Prenda, insomma, il bilancio delle tre qualifica, supponiamo che la Roma stasera si qualifichi, beh, insomma, o fa un punto almeno, oppure Bayern non perde col Basilea. Diamo anche la Roma per qualificata. Allora, tre squadre italiane su tre qualificate agli ottavi di Champions è un buon risultato. È un buon risultato che diventa discreto se si pensa però che tutte e due passano la seconda e che quindi... insomma, Barcellona, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Bayern negli ottavi non sono delle probabilità concrete, ma insomma comunque la qualificazione è raggiunta. Se parliamo di quel trofeo, se parliamo di Europa League, io non voglio arrivare a usare la parola vergogna, perché nel calcio secondo me la si usa veramente il meno possibile, e comunque mai per dei risultati, per altre cose, però le squadre italiane in Europa League hanno vinto due partite su 20, due partite su 20, e non sto a ricordarle i nomi delle avversarie, tolte 4 o 5 squadre presentabili, ce n'erano almeno altrettante, ma forse anche di più, seriamente impresentabili per squadre del calibro di Juventus, di Palermo, di Napoli, di Sampdoria, eppure due vittorie su 20, quindi vede che i momenti buoni sono un po' diversi da quello attuale. In provincia di Lecce andiamo ancora, lì poi torniamo su un altro argomento, andiamo da Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, salve dottor Garanzini. Dica. Volevo giusto sapere, così, una curiosità, una sua valutazione su il giocatore Giovinco, perché Giovinco non ha avuto un trattamento particolarmente di favore dalla Juventus. Adesso a Parma, comunque, a parte i problemi fisici, ha il suo, non viene neanche considerato tanto, dalla nazionale, quando si parla sempre di giocatori giovani, di giocatori che sanno saltare l'uomo, che possono dare fantasia e che, a differenza magari di Balotelli o qualcun altro, non è neanche così troppo famoso per le sue uscite di testa, quindi è un giocatore che vorrei sapere un po' la sua riguardo questo giocatore. L'ascolto per radio, grazie. Grazie a lei, Alessandro. Adesso se dico, ci stavo pensando mentre lei lo diceva, se dico che Giovinco mi ricorda un po' un mezzo giocatore, lei naturalmente sostiene che sto dicendo che sto facendo una gaffa terribile data la statura di Giovinco, no? Invece secondo me Giovinco è un tre quarti di giocatore, nel senso che tra un mezzo giocatore di statura e un trequartista come è di vocazione, ecco, io credo che lui sia un po' lì nel mezzo, sia un po' lì a metà del guado, perché le sue doti tecniche non si discutono, le sue doti fisiche ahimè sì. E allora torniamo pure a quello che si diceva all'inizio, anche che si diceva poco fa con Rivera, a questi tre meravigliosi nani del Barcellona, no? che sono attualmente i tre più forti giocatori del mondo, o comunque tra i primi cinque giocatori del mondo che giocano insieme, che ricamano insieme e che hanno a loro fianco a loro volta altri nani, perché Pedro ha più o meno la loro stessa statura, perché Boyan quando entra ha quasi la loro statura, perché Dani Alves non è certamente un Marcantonio, quindi la statura non è un limite fisico, atletico per giocare a calcio quando c'è una grande tecnica. Forse Giovinco non è a quell'altezza, insomma, e in ogni caso ha già avuto una serie di, non dico bocciature, ma insomma una serie di riserve, una serie di prese di distinguo da parte di chi lo allenava e di chi ce l'aveva sotto mano. Non so se sia un pregiudizio italiano, credo in parte sì, ma in parte però è una questione proprio di limiti. Claudio Udine, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Io le telefonavo per l'Inter, io sono un tifoso interista, non particolarmente deluso, perché mi aspettavo, conoscendo la squadra, un tracollo dopo questi anni di vittorie. Volevo solo sottoporre questo ragionamento che mi dà parecchio fastidio. Stanno i giornali, i giornalisti, forse anche la società, stanno trattando secondo me molto male questo allenatore. Forse perché è troppo una brava persona o perché secondo lei è incapace. Io mi ricordo che il Liverpool di Benitez ci ha fatto ballare una samba 2 anni fa a Mancini, che ancora ce la ricordiamo, squadra aggressiva che pressava, ci aveva messo letteralmente alle corde. Non credo che sia un comportamento corretto nei confronti di questa persona. Mi dispiace molto perché mi sembra una persona di una umanità, di una serietà, che starebbe bene all'Inter. Forse siamo abituati con gente troppo arrogante, forse anche a partire dal presidente ogni tanto, e le persone corrette alla Simoni, per dire, non siamo abituati a tenerle. Cosa ne pensa? Penso che Benitez sia la persona giusta al posto sbagliato, o comunque la persona giusta nel momento sbagliato, perché ormai mi pare che questo lo si possa dire. Però Claudio, le faccio rispondere da chi si è appena collegato con noi per altri argomenti, ma che ha tutti i titoli e la competenza necessaria per risponderle. Intanto bentornato a Nicola Roggero. Buongiorno Gigi, buongiorno gli ascoltatori. Questo ascoltatore friulano, Claudio, interista, con tono molto accorato, ci stava dicendo che lui è molto deluso di come viene trattato Benitez dalla stampa, ma soprattutto dalla società, secondo lui, da come non è stato, come dire, considerato fin dall'inizio, perché trattasi a parer suo di signor allenatore. Allora, io gli stavo rispondendo in un modo, vorrei sentire la tua. Ma sul fatto che sia un signor allenatore non c'è nessun dubbio, basta vedere quello che ha fatto, direi più che al Liverpool, dove pure è arrivato a vincere la Champions League, al Valencia. Il Valencia ha vinto 2 titoli e non è facile in Spagna se non ti chiami Real Madrid o Barcellona, certo. E in più ha vinto una Coppa UEFA, quindi è certamente un signor allenatore. Al Liverpool ha aggiunto, seppure in maniera rocambolesca, la vittoria in una Champions League. Il Milan purtroppo se lo ricorda ancora come finì quella partita, non ha mai stato in lotta per il campionato, però sul fatto che sia un signor allenatore non ci sono dubbi. È chiaro che in questo momento i risultati gli danno contro, al di là degli infortuni, al di là delle eventuali scelte di Benitez, che poi insomma in questo momento scelte non sono più di tante, certo. Insomma ne può schierare 11, a volte neanche 11, poverino, è costretto addirittura a prendere gente della primavera. La mia impressione è che Benitez sia un po' l'elemento arrivato nel momento più sbagliato possibile. Certo. E allora alla fine le opinioni coincidono. Questa è la mia idea. europea. Nicola, senti, guardando il programma di stasera, lo so che è una sensazione, cioè una sensazione, è un'ipotesi molto teorica, però delle grandi squadre l'Arsenal è l'unica che rischia teoricamente ancora di uscire, perché i numeri questo dicono. Sì, l'Arsenal rischia di uscire, è piuttosto difficile. Per uscire l'Arsenal deve ottenere un risultato peggiore di quello del Braga che gioca in Ucraina sul campo dello Shakhtar Donetsk. Sì, quindi. Quindi se l'Arsenal pareggia il Braga non deve vincere, se l'Arsenal perde il Braga non deve pareggiare. Il compito dell'Arsenal è facile, gioca col Partizan Belgrado che di punti ne ha raccolti bene zero nelle prime cinque partite, quindi penso che giocando in casa l'Arsenal non abbia problemi. Però in qualche modo l'Arsenal è riuscito a dare una mano alle italiane. A dare una mano in che senso? Che l'Arsenal molto facilmente si qualificherà, ma ben difficilmente lo farà al primo posto, e quindi libera un possibile sorteggio più agevole per le italiane, perché il girone lo vincerà lo Shakhtar Donetsk, e lo Shakhtar Donetsk insieme allo Schalke 04 è uno dei due possibili sorteggi così agevoli o comunque non impossibili che Roma, Inter e Milan potranno avere nelle urne di Ginevra. Se qualcuno se lo fosse dimenticato, potrebbe aver trovato ieri sera un'immagine emblematica del livello di questa fase, con il presunto rinvio al volo del portiere del Twente. Mi spiace che non tutti possano averlo visto, ma chi ha visto quella sequenza credo sia tornato proprio dalle parti dell'oratorio, Nicola. Sì, direi che visto che noi due siamo piemontesi può essere tornata una partita tra Bra e Carrù prima della festa del Bue Grasso. Dopo la festa del Bue Grasso. O dopo la festa del Bue Grasso, meglio ancora. Certo. È stata una situazione comica che ne ha ricordato una che riguardava il portiere dell'Inghilterra Paul Robinson in una Croazia-Inghilterra fino a 2-0 per la Croazia, in cui su un retropassaggio esattamente come quello di ieri di Gary Neville il portiere Robinson calciò le margherite, la palla finì in rete. E fra l'altro fu una delle situazioni che costarono poi l'Inghilterra la qualificazione agli europei del 2008. Ieri la sequenza è stata molto simile. Ho apprezzato il fatto che il portiere del Twente si sia messo a ridere, perché in effetti c'era ben altro da fare, c'era ben poco altro da fare. Questo però dà l'idea, come dicevi tu, del livello della Champions League e dà l'idea del fatto che l'Inter insomma è uscita da un girone dove non avrebbe dovuto avere la minima difficoltà, e invece con il Twente ha avuto i sudori freddi, perché insomma, non è possibile che una squadra con un portiere del genere possa mettere in difficoltà la formazione campione d'Europa. Senti, mentre invece un altro portiere ieri sera ho visto di tutt'altro segno opporsi allo United. Guarda, un portiere che io credo, se il suo valore è quello visto nei 90 minuti dello Trafford, diventerà veramente un super, perché si giocava a Manchester a temperatura sotto zero, tanto che il poveretto si era portato una calzamaglia, era il terzo portiere del Valencia, perché il primo Cesar Sanchez aveva un problema al polpaccio, il secondo che si chiama Moyà era infortunato, lui è stato buttato dentro, un ragazzino di 23 anni, cresciuto tra l'altro proprio nelle giovanili del Valencia, e ieri praticamente ha preso le mosche, addirittura si era opposto alla conclusione che poi avrebbe portato al gol dello United, è riuscito a fare una gran parata, è stato sfortunato perché c'è stato il tempo di Henderson. Però segniamoci questo nome, si chiama Guaita, esattamente come l'oriundo che aiutò l'Italia a vincere i mondiali del 34, perché potrebbe essere il crack del futuro. Guaita, già annotato. E allora chiuderei, Nicola, con una considerazione invece proprio sullo United, perché c'è stato un periodo di un grosso modo un mesetto fa, tu sei un vecchio affezionato, vecchio mega tanto, ma insomma sei un cultore del Manchester United, della sua storia, ma anche della sua attualità. Io ho avuto la sensazione un mese e mezzo fa che lo United potesse, non dico incartarsi come poi si è incartata l'Inter, ma che non fosse molto lontano da un anno come minimo di transizione. Sembra che il temperamento e l'orgoglio di quella gente sia un po' diverso. Poi hanno un signore in panchina che si chiama Sir Alex Ferguson. A proposito, chi dice che è stato pesante avere l'eredità di Mourinho sulla panchina dell'Inter, immaginate al confronto il poveretto che erediterà prima o poi la panchina di Ferguson allo United. Avrà tutto il peso, non della panchina, ma tutto il Trafford addosso, io credo. Detto questo, lo United è vero che un mese e mezzo fa era in difficoltà, è anche vero che aveva degli infortuni, è anche vero che però sta sopperendo in maniera incredibile il fatto che Rooney, che teoricamente certamente il suo miglior allenatore, non ha ancora segnato alcun gol su azione in tutta la stagione. Ha segnato due rigori, uno ai Rangers in Champions e uno al West Ham in campionato, ma sempre appunto ha segnato su rigore, non ha mai segnato su azione. Ciononostante è virtualmente primo in campionato, è stato scavalcato dall'Arsenal, ma perché non ha giocato l'ultima partita che è stata rinviata con il Blackpool, si è qualificato come primo in Champions, ogni tanto spolvera quel vecchio ragazzo che si chiama Ryan Giggs o quell'altro vecchio ragazzo che si chiama Paul Scholes, che danno minuti di qualità, e soprattutto a questo allenatore che non molla mai. Io non credo che il Manchester United riuscirà a vincere o a essere protagonista fino in fondo, però è incredibile come questa squadra si rigeneri sempre. Tra l'altro, a proposito del lavoro di Ferguson, nel momento in cui dovesse lasciare, le sue punte si chiameranno Wayne Rooney, classe 85, 25 anni, poi Hernandez, che abbiamo già visto in mondiale, attaccante messicano, classe 88, Kiko Makeda, classe 91, e tenete presente questo nome, Danny Welbeck, che è quel ragazzo che attualmente gioca e segna per il Sunderland nella massima serie inglese, ma è di proprietà dello United, classe 90, quindi gli lascia a livello di attaccanti insomma una bella eredità. Discreta, passabile. Nicola, grazie. Grazie Gigi e buongiorno agli ascoltatori. Buona festa, soprattutto con la bimba, con Virginia, che è l'erede di casa Roggero, visto che oggi appunto è una giornata festiva. Adesso torniamo da qualche ascoltatore che vuole ancora intervenire, però io ascolterei prima le vigilie di Roma e Milan attraverso il contributo prima di Ranieri. Certo, il contributo di Ranieri l'abbiamo già ascoltato, effettivamente ho avuto un attimo di blackout. No, c'è una bella intervista invece da ascoltare, ecco la confusione con la scaletta. La bella intervista da ascoltare è quella del duo bresciano, presidente e allenatore, Corioni e Beretta, che dialogano su salvezza, su premi e su precedenti. La scelta è calata su il signore qua vicino a me, che ha un buon pedigree, che serve a noi come prima è quello di salvare la squadra in Serie A. Mi pare che lui ci sia riuscito qualche volta. È retrocesso ancora dalla A alla B lei? Mai. Il retrocesso dalla A alla B? I gesti sotto al tavolo si possono fare, non è un problema. Io spero veramente di avere più fortuna di Beppe Iachini, che tra l'altro saluto, perché è un professionista, come ho detto prima, un professionista e una persona, una bella persona. Mai porsi delle limitazioni e quindi l'abbiamo messo, non si sa mai. Cominciamo a salvarci, poi dopo ne riparliamo di questo. Beretta alla corte di Corioni per provare a salvare il Brescia. Il ripasso della storia, anche fidato anche oggi, 8 dicembre, a Nicola Filippone. Sembra ieri. 8 dicembre 1982. La Roma di Lidholm supera gli ottavi di finale di Coppa UEFA battendo in rimonta un ostico Colonia, guidato dall'olandese Rinus Michels. All'andata i tedeschi avevano vinto per 1-0 con rete di Arlofs. All'Olimpico va in scena una delle sfide più emozionanti nella storia europea dei giallorossi. La Roma fa fatica a sfondare, il primo tempo finisce 0-0. Nella ripresa la partita viene sbloccata da Iorio, che insacca di testa, da distanza ravvicinata, dopo che il portiere Schumacher aveva respinto un fendente di Di Bartolomei. In un palpitante finale, la Roma trova il gol qualificazione a un minuto dal termine, con una prodezza di Falcao, che approfitta di una respinta corta della difesa del Colonia, stoppa di petto e lascia partire una conclusione imparabile. Partita effettivamente memorabile per quei tempi. Cosimo ha chiamato dalla provincia di Taranto, buongiorno. Buongiorno, salve. Io volevo esprimere il mio parere su quanto riguarda la squadra di Guardiola, il Barcellona. Sì. Da Barcellona Real Madrid è stata una partita di o indimenticabile. Effettivamente sì. C'è qualche problema di linea? Sì, mi pare che sia. Certo. Peccato. E allora niente, chiudiamo. Mi sarebbe piaciuto chiudere con Cosimo le sue considerazioni sul Barcellona. Lo faremo magari domani. Adesso io direi, per chiudere invece, visto che il tempo c'è, di sentire la vigilia di Allegri, non più di Ranieri che avevamo già trasmesso prima, ma quella di Allegri su questa serata platonica con l'Ajax. Dobbiamo vedere se tutti siamo da Milano, perché giocare queste partite senza avere l'obiettivo e l'assillo del risultato non è facile, però dobbiamo farlo nel migliore dei modi, anche perché dopo uscire con un risultato negativo fa male a tutti, girano le scatole a tutti, e quindi non dobbiamo farlo, anche perché dobbiamo mantenere alta concentrazione, perché dopo 3 giorni dovremo rigiocare in campionato, e quindi sono partite che non possiamo sbagliare. Ma lui si allena come gli altri, la scorsa settimana ha fatto due buone giornate di allenamento, poi per scelta l'ho lasciato fuori, però il fatto che lui abbia grande voglia di giocare dimostra che ci tiene ancora molto a dare a questa squadra, a questa società. E questo credo che sia la cosa più importante. Non è assolutamente un contentino, perché nella partita che dobbiamo giocare dobbiamo cercare di fare risultato, perché non è che giochiamo una partita amichevole, una partita tra scapoli ammogliati. È una partita di Champions, è una partita che va giocata nelle migliori condizioni possibili, indipendentemente da chi vada in campo. Buon pomeriggio festivo anche da Franco Piantanida, che era in redazione, da Roberto Scaltritti in regia.